Mtali, marke muhimu los dale on luiso mkom na jama zae rokon mwen albom ya vinga mal stress o yung bilor twenda mbal langu itzinyi sfanya chal freestyle more lead when shaya mal ata tan swag swala harmwe bazin strema tse flow hentin dungo zero kwana min wom zero ton swami yuk snake flow mais vo wasu himbar nai flow wa muventa arine mohimba to wa marke from hindir mai from flow ni zigzag money money your business your body wa su himba money money rina rina rina rina rina rina rina rina rina money rina rina rina rina kroma mama rina money rina rina rina rina rina rina rina money rina rina rina rina kroma mama rina money if you need money come here yeah as a light in the dark, come here, we have money. Young business, running money. Like a few around me. Car, bitches and diamond. One by one, I count. VA green, VA violet. Young business, VA violet, VA green. Young business, tombe en bois ou la biha. Ou swang ou quoi, hele wag. Money ke shukuri voa. Appelle-moi I. Me kwan money money rina money rina rina rina rina rina rina rina money rina rina rina rina kroma mama rina money rina rina rina rina rina rina rina money rina rina rina rina kroma mama rina money business flow de regard sur le hublot ici on se la joue buzz normal je suis avec une rose my money is my beat t'inquiète je suis dans le hit. À droite, à gauche, la même. Quand sur la table, toujours la même chose. Money, DHM business. Tu connais, c'est pas un secret, c'est normal. Si t'as ma chaussure, comme elle n'attend pas encore analysée, aromatisée. Bitches, très frais, grec, BM, young business. For the very nice money. Rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, money. Rina, rina, rina, rina, tromba, mama, rina, money. Rina, rina, rina, rina. Ramsada, Jibiwa, Rambiwa, Bas Wo Ramsada, Ari Wamsada, Ari Wamsada. Always Rina, Rina, Rina, Rina, Rina, Rina, Rina, Mone, Rina, Rina, Rina, Rina, Kroma, Mama, Rina, Mone, Rina, Rina, Rina, Rina, Rina, Rina, Rina, Mone, Rina, Rina, Rina, Rina, Kroma, Mama, Rina, Mone. Rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina, rina